in primo piano. Buongiorno a tutti, questa mattina i giornali, la stampa quotidiana in Italia aprono con scelte di titolazione abbastanza diversificate. Comunque la notizia ritenuta mediamente più importante è il progetto di legge che andrà in discussione domani nella riunione del Consiglio dei Ministri, che prevede nuove regole per l'esercizio del diritto di sciopero. La stampa intitola «Freno agli scioperi selvaggi». Stretta dal governo, sarà più difficile bloccare i servizi pubblici, arriva l'agitazione virtuale, in servizio senza paga. Repubblica, trasporti, stretta sugli scioperi. Si prepara una legge delega che prevede l'agitazione virtuale e obbliga al referendum preventivo. Poi vengono messi in rilievo altri punti, il nucleare, molte regioni dicono di no, e si preannuncia il no della CGIL. Il manifesto, dando fiato all'opposizione radicale, titola seccamente «Delitto di sciopero». Di che cosa si tratta in concreto? Leggiamo qualche stralcio della cronaca di Repubblica affidata a Francesco Mimmo. Il governo prepara la stretta sugli scioperi con una riforma che sarà esaminata nel prossimo Consiglio dei Ministri venerdì. Le nuove regole però riguarderanno solo i trasporti, con un parziale passo indietro rispetto alle prime intenzioni dell'esecutivo. Il disegno di legge, per ora solo una bozza, riguarda la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone. Limitando l'intervento ai trasporti, il ministro del Lavoro, che ha messo a punto il progetto, punta ad ottenere il massimo consenso sindacale possibile, evitando così il prevedibile muro contro muro. In concreto si tenterà a arrivare a una maggioranza almeno la metà più uno dei lavoratori per proclamare il diritto di sciopero. Su questo punto i sindacati CGIL, CISL, UIL e PERFI, con varie accentuazioni, muovono ancora parecchie riserve. La stampa, tuttavia, ci dà conto di una convergenza fra esponenti del governo, come il ministro Brunetta, che accoglie con entusiasmo la svolta e dichiara «sconfitte le casematte della conservazione, non saremo più ostaggio di pochi», e un esponente dell'opposizione del PD, il giuslavorista Pietro Ichino, che apre alle posizioni del governo dicendo il disegno di legge non è contro i sindacati, anche il Partito Democratico può votarla, negli altri paesi le regole ci sono già. I trasporti, osserva Ichino, si fermano in Italia almeno una volta al mese e questo evidentemente viene considerato troppo. Sempre sulla stampa l'economista Pietro Garibaldi esemplifica l'idea dello sciopero virtuale che è stata lanciata proprio da Ichino sul sito internet lavoce.info alcuni anni fa e ce la racconta, ce la riassume in questo modo. I lavoratori in sciopero virtuale rinunciano effettivamente al loro stipendio e l'azienda al tempo stesso paga il doppio o il triplo del costo del lavoro a un fondo per opere pubbliche. In questo modo l'azienda incorrerebbe davvero in un danno e i cittadini vedrebbero davvero garantito il servizio. Ecco, vedremo se alla fine arriveremo verso questo esito riformista o se invece ci sarà una decisione più radicale. Un altro tema che tiene banco è il varo dei Tremonti Bond, ne avevamo accennato ieri, è un processo che è in corso e che ci sta portando ormai dalle parole ai fatti. Leggiamo la cronaca di Alessandro Graziani sul Sole 24 Ore. Alessandro Graziani scrive: le richieste delle banche italiane potrebbero superare il plafond di 10-12 miliardi stanziato dal governo per i Tremonti Bond. È quanto risulta da un sondaggio condotto tra i principali istituti italiani, che al massimo entro un mese intendono presentare le richieste di sottoscrizione al Ministero dell'Economia. Solo considerando le prime quattro grandi banche italiane, infatti, la richiesta dovrebbe ammontare a 9 miliardi di euro. Sia Unicredito che Intesa San Paolo, stiamo parlando dei due colossi, potrebbero chiedere fino a 3 miliardi a testa, mentre Monte dei Paschi e Banco Popolare sarebbero pronti a chiedere la metà ciascuno, cioè 1,5 miliardi a testa. Se le indicazioni fossero mantenute per tutte le altre banche quotate, il plafond residuo ammonterebbe dagli 1 ai 3 miliardi e potrebbe rivelarsi insufficiente a soddisfare le richieste di tutto il sistema. Già, perché, come intelligentemente ricorda Graziani, il mondo è fatto anche delle banche medie, delle banche piccole, delle banche che non sono quotate e che magari si sono rivelate nel tempo più virtuose delle grandi. Dice Graziani, gli istituti non quotati, per ora esclusi dal provvedimento d'aiuto, potrebbero farsi avanti e chiedere un sostegno, si va dalle banche popolari al sistema delle banche di credito cooperativo, che eviti svantaggi competitivi rispetto alle altre banche, grandi e medie, che migliorando i coefficienti patrimoniali avrebbero più risorse da destinare alla clientela delle piccole e medie imprese. I Tremonti Bond hanno anche la benedizione del Quotidiano dei Vescovi, L'Avvenire, che dedica proprio a questo tema l'editoriale di Massimo Calvi, il quale scrive: finalmente si inizia a stringere. Tremonti Bond, speriamo. La missione dei Tremonti Bond, che avranno un rendimento iniziale fra il 7 e l'8%, è semplice: accrescere temporaneamente con risorse pubbliche il patrimonio delle banche che lo vorranno e consentire agli istituti di credito di prestare più facilmente il denaro senza rischi per la loro stabilità. Un altro punto abbastanza importante che viene ricordato nelle aperture dei quotidiani è il tema delle intercettazioni telefoniche. Il Corriere della Sera ci informa che Fini e Bossi sono per la linea morbida. Il governo è orientato a non mettere la fiducia e quindi titola: intercettazioni sì a modifiche. Quanto al caso Berlusconi-Sacca, il pubblico ministero chiede l'archiviazione. La cronaca: il decreto di legge Alfano sulle intercettazioni sarà cambiato in 2 o 3 punti. Lo ha annunciato il ministro della giustizia al termine di una riunione fiume del Popolo della Libertà alla Camera. Si esclude l'ipotesi di chiedere la fiducia. 2, i punti del testo sicuramente da riscrivere. Il divieto di intercettare i sospetti se non in presenza di gravi indizi di colpevolezza, e il divieto di rivelare ogni notizia sugli arresti, su arresti e inchieste fino alla loro conclusione. Ecco, questa apertura del governo a correggere il disegno di legge sulle intercettazioni telefoniche, sui vincoli alle intercettazioni telefoniche, guadagna al gabinetto Berlusconi anche il plauso insospettabile di un comunista come Pietro Sansonetti, che è stato fino a poco tempo fa il direttore del quotidiano di Rifondazione Comunista Liberazione, il quale si schiera sul Riformista in questo modo: a me la legge sulle intercettazioni nelle sue grandi linee piace, non mi sembra affatto una legge illiberale né una legge bavaglio che uccide l'informazione. Mi sembra una legge con alcuni difetti da correggere, ma che si ispira a principi garantisti e di difesa del cittadino, della sua innocenza, della sua vita privata, del diritto a non essere linciato. Nel merito, di intercettazioni, uno dei casi che aveva destato più scalpore era il caso dei colloqui intercettati fra il premier Berlusconi e l'alto dirigente della RAI Sacca. Ecco, vediamo come ci racconta l'esito di questa vicenda il Corriere della Sera. Distruggere i nastri e archiviare. Si chiude il caso Berlusconi-Sacca. Per il pubblico ministero nessuna prova di do ut des quando il Cavaliere parlava di attrici. Berlusconi parlò con l'ex direttore di Rai Fiction di Evelina Manna, Elena Russo, Camilla Ferranti e Antonella Troiese. Ma, si osserva il giornalista Flavio Haver, a Berlusconi non servivano indebite utilità per avere favori da Sacca e quindi oggi le segnalate possono esultare. La Manna dice, ma mi hanno massacrata. Veniamo ancora all'economia. Va segnalato sul Messaggero un editoriale di Romano Prodi che ha ripreso da qualche tempo a far sentire la sua voce dopo un lungo periodo di silenzio seguito alla sconfitta elettorale del centro-sinistra. Da ex presidente della Commissione europea, che in quel lavoro ha riscosso anche il plauso dell'attuale ministro dell'economia Giulio Tremonti, Romano Prodi formula due proposte. In questo momento, scrive, la solidarietà europea non è solo un fatto etico, ma il nostro più efficace strumento di difesa contro l'allargarsi della crisi. Per essere ancora più chiari, voglio dire che ogni euro dedicato alla difesa dell'economia europea nel suo complesso vale molto di più di un euro dedicato alla difesa di un singolo paese, perché la speculazione, dice Prodi, ha paura di un'Europa forte e unita e colpisce solo i paesi isolati. Queste le due proposte. La prima riguarda un aumento del bilancio dell'Unione. Esso è oggi inferiore all'1% del prodotto interno lordo europeo e va portato subito, nell'ambito della revisione dei bilanci 2008-2009, all'1,25%, dedicando poi questo quarto di punto in più, che trattandosi di un quarto di punto su scala europea sono soldi, ad interventi straordinari volti ad alleviare le tensioni dei paesi dentro e fuori l'eurozona. La seconda decisione, che ha un sapore fortemente tremontiano, è l'emissione di titoli del debito pubblico a livello europeo, che si affianchino e non sostituiscono i buoni del tesoro dei singoli paesi. Qui sembrerebbe tutto facile, tutto europeista, ma Prodi avverte che questo secondo punto implica una maggior coesione politica dell'Europa ed implica che i paesi virtuosi, a partire dalla Germania, debbano essere garantiti che il loro contributo non vada sprecato. Ecco quindi la conclusione. È chiaro che di fronte a decisioni così importanti sarà necessario offrire alla Germania e agli altri paesi più virtuosi garanzie di ferro per l'impiego di queste risorse comuni. E torniamo all'Europa. Il Sole 24 Ore titola l'apertura del giornale in questo modo. Sì dell'Unione Europea all'Italia, il sistema è solido, tocca alle pensioni. Chiesto uno sforzo per riportare il deficit al 3%. Giudizio positivo, scrive il giornale il primo giornale economico italiano, giudizio positivo della Commissione europea per le misure anticrisi adottate dal governo. Gli interventi sono adeguati in considerazione dell'alto livello di indebitamento e conformi al piano europeo per il rilancio economico. Bruxelles resta tuttavia preoccupata per i conti pubblici e ricorda che secondo il programma di stabilità quest'anno il deficit salirà al 3,7% del PIL. Secondo Joachim Almunia, tornare sotto il 3% richiederà grande impegno. Da qui l'invito a considerare nuove riforme a partire dall'innalzamento dell'età pensionabile delle donne, tema non nuovo ma sul quale c'è da tempo contrasto e polemica nel Paese. Aumentare l'età pensionabile delle donne per finanziare un sistema di sussidi alla disoccupazione che sia più uniforme. Il tema dei conti pubblici viene ricordato anche dall'altro quotidiano economico, MF, il quale ci avverte: il Tesoro cerca 12 miliardi per finanziare la sottoscrizione dei titoli, i famosi Tremonti Bond di cui abbiamo parlato prima. I costi saranno coperti con tagli alla spesa pubblica, fondi di tesoreria e nuovi bot. Ecco, in questo modo il quotidiano MF ci avverte che la partita dei Tremonti Bond non è chiusa, nel senso che i soldi arriveranno alle banche, le banche li stanno chiedendo, ma il problema sarà vedere, questo è il secondo tempo del film, come il governo riuscirà poi a procurarsi a sua volta queste risorse. Ultimi commenti sull'economia li troviamo dall'America, dove c'è l'altalena giorno sì giorno no, nazionalizzazioni sì, nazionalizzazioni no. Oggi su Repubblica Nouriel Roubini, che è uno dei non molti economisti che era stato capace di prevedere il disastro imminente, ora rifà i conti in tasca al sistema bancario americano e ne trae degli auspici piuttosto infausti, nonostante gli sforzi fatti fin qui. Scrive Roubini: le banche USA e gli intermediari sono esposti per circa 1,8 trilioni di dollari, i trilioni sono le migliaia di miliardi. Il resto è distribuito tra altre istituzioni finanziarie, sia negli USA che altrove. L'autunno scorso il capitale a copertura degli asset bancari era di appena 1,4 trilioni, per cui il sistema bancario USA risultava in rosso per 400 milioni di dollari e anche dopo gli interventi di ricapitalizzazione ad opera del governo e del settore privato, la sua riserva di capitale è praticamente pari a zero. Roubini ci sta dicendo una cosa molto grave: servirebbero altri 1,5 trilioni di dollari per riportare il capitale delle banche al livello pre-crisi. Solo così si potrà superare la stretta del credito e rilanciare i prestiti al settore privato. In altri termini, il sistema bancario USA è di fatto insolvente nel suo complesso, al pari di gran parte del sistema bancario britannico e di molte banche dell'Europa continentale. Come abbiamo visto, sembrerebbero non le italiane. Paradossalmente, dice Roubini, la nazionalizzazione potrebbe rivelarsi come la soluzione più favorevole dal punto di vista del mercato. Verrebbero infatti esclusi dalle istituzioni palesemente insolventi sia gli azionisti comuni che i detentori di azioni privilegiate. E in caso di insolvenza molto estesa anche i creditori non garantiti, assicurando al tempo stesso ai contribuenti un compenso adeguato. Sul Corriere della Sera, invece, il corrispondente da New York, Massimo Gaggi, ci racconta di come il presidente Barack provi a seppellire i banchieri stile Gordon Gekko. Gordon Gekko era il grande protagonista, lo freddo speculatore del film di Oliver Stone, Wall Street. Massimo Gaggi chiude il suo articolo ricordando le opinioni espresse ieri sul Financial Times da Nassim Nicholas Taleb, il guru della gestione dei rischi, secondo il quale il capitalismo si basa su incentivi e disincentivi, ma i finanzieri conoscevano soltanto il segno più. In questo modo, oltre a dimostrarsi avidi, hanno sabotato il mercato. Dovrebbero dunque restituire il mal tolto, dice ora Taleb. E con una certa simpatica malizia, Taleb dice: anche Bob Rubin dovrebbe restituire, l'ex ministro di Clinton e banchiere della Citigroup, che è stato tra i più ascoltati consiglieri di Obama. Del resto, cosa volete mai? Il mondo talvolta sembra andare a rovescio, perlomeno per chi aveva una lettura ideologica delle cose, e adesso sul Sole 24 Ore Franco Locatelli, un giornalista molto attento, ci dà conto delle rilevazioni del barometro delle privatizzazioni. E che cosa ci dice il barometro delle privatizzazioni? Ci dice che l'anno scorso, tra acquisizioni e garanzie prestate dagli stati sui titoli bancari, sono stati impegnati nel mondo circa 1.500 miliardi di dollari, che equivale alla somma dei proventi delle dismissioni, cioè delle privatizzazioni, arrivati nelle casse degli stati dal 1977 ad oggi. Con questo chiudo la rassegna stampa di oggi e arrivederci a domani.